vita continua a girare, sembra uscita dalla scena di un vecchio film. Qualche stella ha il suo da fare, chissà quanti clienti avrà già. Quando il pazzo fa quel che deve fare, non mi scordo di farmi più là. In una realtà che sembra fatta di sale, frana con grande fragilità. Intanto quella porta continua a girare, tra chi si sposta e chi non sa cosa fare. Vorrei scoprire se il rimedio è una giusta opinione o la forma che ha il destino mascherato da grandi occasioni. Sulla strada un pedone impreca per una merda di cane, mentre la gente che passa lo fa senza apparente ragione. E quella porta continua a girare, tra chi si sposta e chi non sa cosa fare. E quella porta continua a girare, tra chi si trucca e chi non vuol cambiare. Quella porta continua a girare, quella porta continua a girare. Penso a quando credevo di scappare con l'intero bottino, fuggire impazzito di vita alla luce di un bel riflettore. Ora so che il sacco è vuoto, a cercarmi non è venuto nessuno, così come altri aspetto con calma che venga di nuovo il mattino.